un periodo non facile per chiunque, cioè non è semplice mantenere l'equilibrio in una situazione come questa, dove dalla sera alla mattina qualcuno, cioè Tremonti, ti dice che le cose vanno da schifo, quando Berlusconi fino a poco fa aveva detto che andava tutto bene, che gli italiani erano benestanti, è chiaro che uno alla fine un po' si incazza.